Noi che perdemmo pace a sonno, non ci dicemmo mai perché. Voi che cavasse non ne vanno, non so sti vocco in è. Pure te chiamme non risponde. Forse sarà che ho chianto e dolce, forse sarà che bene fa, quando mi sento che ho felice, non è felicità. Pure si è vuota tu mi dice, distratta a verità. Fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire. E c'è di ci ma fa parola amare, si o bene può campare con un respiro. C'è così.